gotta have a heart of steel. Allora, sempre atti misfatti, torniamo in diretta. Nel frattempo si è aggiunta un ospite. Ciao Giamila, ben trovata. Ciao. Allora, noi con te, insomma, ci aiuterai ovviamente a lanciare questo appuntamento che è la presentazione di un libro che tu hai curato insieme a Sabrina Marchetti e Vincenza Perilli e poi Giamila Mascà, che è qui con noi, Femministe a parole, grovigli da districare, che già prima fuori onda parlavamo insomma del titolo. L'incontro lo anticipiamo, poi lo ricordiamo di nuovo, si tiene venerdì alle 18:30 sì, al Caffè Letterario alla Casa Internazionale in Via della Lungara. E di che parla questo libro? Allora sì, intanto questo libro è un dizionario, quindi è un dizionario scritto da 44 autrici più noi tre curatrici, quindi tutto 47 donne femministe, e l'impresa quindi è stata facilissima. E è un dizionario, insomma, che cerca di mettere a fuoco quelli che sono i temi un po' più dibattuti nel dibattito femminista contemporaneo, e sono veramente tantissimi, quindi dalla A alla Z, per capirci più o meno. Forse qualche lettera è rimasta scoperta, perché appunto il dizionario non è un dizionario enciclopedico, è un dizionario ragionato in cui abbiamo scelto di trattare, certo, alcuni temi, quelli che ci sembravano più controversi, quelli più polemici, e spaziano veramente da, appunto, da Dio al sex work, la poligamia, le relazioni poliamorose, temi, diciamo, tipicamente dibattuti nel femminismo contemporaneo, ma anche temi che non sono classicamente femministi, come per esempio il welfare, la globalizzazione, certo, accorpati nelle parole. Accorpati nelle parole, appunto, Femministe a parole è un titolo ironico su cui abbiamo discusso molto tra autrici e curatrici. Il titolo, secondo me, è evidentemente ironico, quindi chi legge poi la quarta di copertina capisce che non siamo femministe a parole e non nei fatti, ma siamo femministe che rivendicano di essere tali, e che però, insomma, femministe che si pongono il problema delle parole, dell'uso delle parole, del linguaggio che non è neutro, dei rapporti di dominazione che passano attraverso il linguaggio e quant'altro. E però, appunto, se posso dire un merito di questo libro è la varietà, non solo nei numeri, dicevo 47 teste da coordinare, sì, e, ripeto, non è stato facile, però soprattutto anche la diversità di provenienze, di competenze, di formazione, di percorsi politici, perché sono femministe, appunto, che vengono da generazioni, storie diverse. E quindi anche un libro in cui si leggono voci che prendono posizioni molto diverse, insomma. Non è quanto è grande questo libro, per capire quanto? 360 pagine. Ah, ok, giustamente vi siete. È di S edizione, che appunto lo ricordiamo per chi, ma insomma lo trovate senz'altro su Google. E a noi ovviamente il tema interessa, perché poi noi le parole qua le maneggiamo costantemente, quindi senz'altro saremo delle lettrici. Lo leggete, appena uscirà in libreria, visto che ancora non c'è, però ci sarà dal 9 maggio. Sarà. Dal 9 maggio, ottimo. Poi magari si trova anche a queste presentazioni che fate, qualche copia si può ovviamente prendere. E posso dire che lo presenteremo, diciamo così, in anteprima, prima della vera presentazione venerdì, che sarà una sorta di conversazione fra autrici e curatrici. Lo presenteremo qui, in realtà, qui in radio, proprio giovedì pomeriggio. Ad Attica Blues, alle 16. Per la seconda volta. E poi magari verremo anche a ripresentarlo qui, se vi va, insomma. Senz'altro, no, anche perché penso ogni volta si possono sviluppare riflessioni diverse, poi appunto così, insomma. Bene. Secondo me è interessante questo fatto di tutte queste donne che insieme danno un loro punto di vista. Immagino che siano anche diversissimi, ci sarà la studentessa e la donna magari cinquantenne che ha già avuto una storia, che già i suoi ragionamenti li ha fatti, quindi si incontrano. E com'è andata questa cosa? No, è vero, appunto, ho detto, c'è un mix di generazioni che va, appunto, da, vogliamo dire, ventenni a sessantenni, forse. Adesso io l'età anagrafica di tutte non l'hai chiesta, però, insomma. Ma per ogni definizione c'è un'unica autrice, nel senso, meglio, ci sono alcune autrici che hanno anche curato più voci, però diciamo la singola voce è stata scritta da una sola autrice, solo che visto che ci sono dei temi che si intersecano, vengono fuori anche punti di vista diversi sugli stessi argomenti. Ci sono una serie di parole che sono più classiche della tradizione femminista, non so, patriarcato, differenza, però lesbismo, però poi ci sono anche, dicevo, tutta una serie di altri termini che non sono direttamente come dire, legati al dibattito femminista, che però vengono invece discussi, affrontati, sviluppati in una chiave di genere. E quindi chi lo legge si rende pure conto che le persone hanno scritto cose diverse, pensando cose diverse. Un po' l'idea era quella anche di restituire uno spaccato del fatto che, diciamo, nella quarta copertina, nell'introduzione, che un po' nel DNA del femminismo c'è questa dinamica di vivere nelle contraddizioni, anche delle contraddizioni fra noi, insomma, fra noi, certo, femministe, che spesso ci accapigliamo, ma questo, insomma, è sano, no? Sì. Quindi comunque è stata una bella esperienza, sì, insomma, sì, in effetti, certo, coordinare anche emotivamente, insomma, questo scambio di mail, di chat quotidiano, perché poi appunto sono tutte persone che non stanno qui a Roma, non facciamo sempre riunioni tête à tête, e si trattava di coordinarci fra gente che nel frattempo viaggia, si sposta, sta dispersa, così, e quindi sì, insomma. Quanto, cioè, ci avete messo? Di un te? Anno, un perché anno. Diciamo che l'idea è maturata più o meno ad aprile l'anno scorso, e poi sì, e quindi un anno, esce dopo un anno il libro. Dai, vabbè, brave, anzi, guarda, poteva, è un'impresa, è un'impresa. Va bene, allora lo ricordiamo, giovedì alle 16 qui sintonizzati sugli 87.9 a Tica Blues, e di nuovo si parla un po' più approfonditamente del libro. Noi nel frattempo lo leggiamo, poi ti rinviteremo. Ottimo. E vi rinviteremo magari, perché siete in tre, insomma. E poi venerdì invece questo incontro dibattito con voi e ovviamente tutte le ascoltatrici anche invitate, alcune delle autrici immagino saranno, sì, presenti, alle 18.30 Casa Internazionale delle Donne, caffè letterario. A seguire sarà anche un aperitivo offerto, ma diciamo un piccolo, ecco, non immaginate cose, regolatevi, e si va per il libro, si, insomma, va per il libro, non per bere. Va bene, Giamila, grazie, grazie, e grazie a presto, voi. Ciao ciao, ciao.